Thank you. fama e gloria, potenza e trono, umane fragili, qui cose sono. Dirai di sì. Thank you. ti serro palpitante, sei mia. Sì, per favore. Vieni, vieni, vieni via dall'anima in pena, angoscia paurosa. Scordar

Mio,

vento muta l'aceto e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso il bianco il riso e menzognero la donna è un dire qua più male vento muta pensiere

Come vivo, vivo Thank you. respira. Ed Rimposarti e Applaudirà

Thank you.